Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione. Da Alessandro Piperno, con le peggiori intenzioni. Nonostante lo sforzo prodigato per essere come tutti gli altri, nonostante la lotta per farsi accettare, affinché il colore dei capelli perdesse per gli altri di significato, nonostante la normalità conquistata a caro prezzo nel corso di un'adolescenza intera, mio padre, alle soglie del matrimonio, non era riuscito a sottrarsi all'unanime perplessità del mondo. E l'aver scelto per sé una ragazza piccolina, per giunta di un'altra religione, di un altro ambiente, aveva reso le cose ancor più complesse. Fu un affair il matrimonio dei miei. È bene chiarirlo, altrimenti tutto il resto non può essere inteso. Fu ardua e in fondo perigliosa la strada che li condusse all'altare. Nessuno lo voleva quel matrimonio, nessuno lo aveva cercato e avallato. Perché da che mondo è mondo, nessun ebreo gradisce che suo figlio sposi una cattolica e nessun cattolico ambisce ad avere un genero ebreo. Alla fine, però, tutti se ne erano fatti una ragione. Le due controparti, seppur senza alcuna serenità, quasi con rancorosa accettazione dell'inevitabile, si erano arrese. «State sbagliando», avevano detto tutti. «Questa storia non promette niente di buono», avevano tenuto a sottolineare. Ma infine, si erano arresi. I Sonnino avevano capitolato rapidamente, più per un'intrinseca incapacità di tollerare la lotta intestina che per una sentita temperanza, mentre dall'altra parte, dalla parte dei Bonanno, infuriava la tempesta. Il coro lagnoso di madri, padri, nonni, parenti, amici lontani si mobilitava per esecrare la scelta della reproba. C'è da dire che per loro era più difficile, è sempre più difficile per la maggioranza accettare la minoranza. Chi sono gli ebrei? Loro non ne hanno mai conosciuti. È la prima volta che vi entrano in contatto. Gente disgraziata, che ha sofferto. Gente ricca e maliziosa. Gente avara e scaltra. Gente che ha il naso fatto in un certo modo. Gente per lo più stempiata. Gente furba che ti frega. Ecco chi sono. Strozzini e pezzivendoli, banchieri e gioiellieri. Se la sono cercata. Che senso ha rimanere ebrei in un mondo di cattolici? Che senso ha non mangiare certi cibi prelibati? Che senso ha essere tanto snob e vittimisti? E poi questo dove lo ha pescato? Con i capelli di quel colore strano, un albino affetto da gigantismo. Ma siamo sicuri al 100% che costui possa mettere al mondo figli sani? Come può la nostra cara ragazza aver fatto una scelta tanto stravagante? Il fascismo aveva costruito il razzismo antisemita di Stato attraverso l'abile manipolazione e costruzione del pregiudizio, attraverso un raffinato e complesso apparato discriminatorio e infine con la persecuzione di concerto con la Germania nazista. La Repubblica Democratica Italiana cosa ha fatto? Nulla. Ha riconosciuto che gli ebrei erano stati vittime, seppure molto in ritardo, in maniera formale, il 1978. Ha riconosciuto le responsabilità del fascismo, ma non ha costruito una educazione uguale e contraria a quella che il fascismo aveva elaborato. Il fascismo aveva assunto antichi pregiudizi giudizi, li aveva tradotti in tempi moderni, in linguaggi moderni, in forme moderne, e li aveva portati a sistema per farne uno dei pilastri dello Stato totalitario. La Repubblica Italiana no, si è limitata a condannare questi pregiudizi, a condannare queste discriminazioni e queste persecuzioni, ma non ha intrapreso un percorso educativo. Anzi, ha lasciato che i vecchi pregiudizi allignassero tra gli italiani, ha preferito non cercare di lavorare in profondità sulla costruzione di una identità democratica di tutti i cittadini. Ne troviamo traccia continuamente nella storia della Repubblica. Per esempio, al primo congresso della Democrazia Cristiana, uno dei grandi dirigenti del partito di allora, Gonella, che poi di lì a poco sarebbe diventato ministro dell'istruzione, dichiara: la famiglia italiana è famiglia cristiana ed esige che nella scuola la religione sia veramente fondamento e coronamento di ogni forma di educazione. E ancora, non si può insegnare la verità prescindendo dalla verità somma, come non si può insegnare la legge morale prescindendo dal sommo bene. Una lettera al Corriere dei Piccoli dell'11 settembre 1954 recita: alcuni compagni ci scherzano e se accade di litigare con loro ci dicono ebrei. Perché devono offenderci in questo modo? La nostra religione, e noi ci crediamo tanto, è bella e noi siamo come tutti gli altri. Il permanente antisemitismo attraversa la società italiana, la società europea, è presente nel mondo. In una omelia del Papa Paolo VI del 4 aprile 1965 si ripropone il tema della responsabilità del popolo ebraico, il quale, cito, quando il Cristo viene, parla e si manifesta, non solo non lo riconosce, ma lo combatte, lo calunnia e lo ingiuria e infine lo ucciderà. Dunque Paolo VI, quel Papa Montini che aveva conosciuto l'antisemitismo di Stato essendo nunzio apostolico in Germania durante il nazismo, quel Papa Montini che aveva partecipato con un ruolo importantissimo al Concilio Vaticano II e che aveva condiviso la dichiarazione della Nostra Aetate, nella quale la Chiesa respingeva il concetto di colpa collettiva degli ebrei per la morte di Gesù Cristo, ancora afferma queste cose nel 1965. Charles de Gaulle, presidente francese, nel 1967, poco dopo la guerra dei sei giorni, definisce il popolo ebraico elitario, sicuro di sé, dominatore e divorato da una bruciante ambizione di conquista. Dal laboratorio di scrittura del progetto Voci 2018. C'era una volta una bella formica che si dilettava tutto il giorno all'ombra di un grande albero a cantare e accompagnare con la sua voce una zelante cicala, mentre questa, notte e giorno sotto il cocente sole, faceva provviste per il grande inverno che stava arrivando. «È pesante?» diceva con voce ovattata la formica. «Vorrei tanto aiutarti, ma poi chi allieterebbe le tue giornate così monotone?» Continuava sogghignando in falsetto, seguendo con sguardo malizioso la cicala. L'esserino magrolino non rispondeva. Ogni tanto si girava verso quel nero corpo che considerava di tanta bellezza quanto piccolezza. Lo compiangeva in silenzio, proprio come l'altro accompagnava con acute risatine la sua meccanica routine, proiettata al futuro e alla sopravvivenza, con la consapevolezza e la fiducia che tanto ci avrebbe pensato il naturale scorrere delle stagioni a metterlo a tacere. Arrivato l'inverno, la cicala si chiuse in casa al riparo dal gelo in attesa della primavera. Quando la formica bussò alla sua porta, senza riuscire nemmeno a parlare per il freddo, la cicala per la prima volta le rivolse la parola. Non canti più? Fai bene. D'altronde l'inverno è la stagione del riposo. Qualcuno potrebbe lamentarsi del rumore. Goditi il silenzio. E voltandosi, chiuse la porta. Cosa pretendeva quella stupida formica dopo un'intera stagione ad oziare? Accoglienza? Bisogna guadagnarsela, pensava tra sé e sé la cicala, ma non avrebbe mai avuto il coraggio di ammetterlo. Avrebbe dovuto riconoscere che in fondo provava invidia per quell'essere così futile che tuttavia anche al freddo continuava ad andare di porta in porta a chiedere riparo, preoccupandosi di vivere quello che aveva prima di pensare a quello che sarebbe potuto mancarle. Ciò che non capiva è che la formica, nella sua leggerezza e superficialità, conosceva bene i pericoli che portava la stagione fredda, ma non riusciva a fare altro che cantare. Non sapeva fare altro. Quello che la cicala percepiva come fastidioso ronzio di sottofondo, altro non era che la stessa natura della formica, e forse non era tanto il suo essere formica, che sarebbe potuta essere anche cicala, quanto il suo canto, e proprio quella sua leggerezza a renderla tale. Questi tratti antisemiti trovano due sponde, una prima della fine dell'impero sovietico nel mondo sovietico del socialismo reale. Prima Stalin, poi Khrushchev, poi anche la Polonia socialista accusano negli ebrei uno spirito antinazionale, uno spirito anticlassista. Hanno una loro identità che si differenzia e si contrappone a quella della partecipazione piena allo Stato socialista. È un'idea che viene utilizzata naturalmente in chiave propagandistica. Nell'ultimo periodo di vita di Stalin, in alcuni passaggi della politica di Khrushchev e poi di nuovo in Polonia, che produce anche delle persecuzioni significative nei confronti degli ebrei di quei paesi. L'altro passaggio è la fondazione dello Stato di Israele, maggio 1948, che scatena reazioni le più diverse sia nel mondo arabo sia nel mondo europeo e occidentale. Nel mondo arabo la contrapposizione comincia al giorno stesso della fondazione dello Stato ebraico, con l'attacco di 5 stati arabi contro la neonata identità statuale, ma si alimenta di elementi di antisemitismo tipicamente europei, per cui troviamo letto dai paesi arabi il testo dei protocolli dei savi di Sion, ma tanti altri stereotipi. Per esempio, il primo ministro malese Mahathir Mohamad, il 16 ottobre 2003, ottenne un applauso scrosciante all'organizzazione della conferenza islamica affermando, cito: "Oggi gli ebrei governano il mondo per interposta persona, fanno combattere e morire altri per loro. Ci schieriamo contro un popolo che pensa. Sono sopravvissuti a 2000 anni di pogrom non contrattaccando, ma con il pensiero. Hanno inventato il socialismo, il comunismo, i diritti umani, la democrazia, affinché le persecuzioni contro di loro apparissero sbagliate, per poter avere diritti uguali agli altri. Con questi strumenti hanno guadagnato il controllo delle maggiori potenze, e così questa minuscola comunità è diventata una potenza mondiale. 1.300.000.000 di musulmani non possono essere sconfitti da pochi milioni di ebrei. Deve esserci un modo. Ancora nel 2005 il presidente iraniano di allora, Ahmadinejad, affermava che la Shoah è una leggenda, sostenendo, cito, essi, gli occidentali, hanno inventato la leggenda che gli ebrei furono massacrati e l'hanno posta al di sopra di Dio, delle religioni e dei profeti. Ancora di episodi come questi ne troviamo tantissimi, fino al più recente. Pochi mesi fa, nell'autunno 2017, nel centenario della rivoluzione d'ottobre, l'uccisione dei Romanov, cioè l'esecuzione capitale della famiglia reale dello zar e dello zar stesso, è indicata quale omicidio rituale ebraico dai patriarchi russo-ortodossi. Da Alessandro Piperno, con le peggiori intenzioni. Per quanto ti possa apparire meschino, Alfio non fa che mostrarti la sua parte più vera, quella più umana, il suo luogo sensibile. Parlo della paura. È un uomo che ha paura. Lui, così alto, imponente, dall'apparenza indistruttibile, è uno che se la fa sotto. È una fortezza dai muri crepati che attraverso la paura insinuata negli altri prova a esorcizzare la propria. Cosa teme? Tutto. Non solo la morte, la malattia, l'infermità, fare la cosa sbagliata, ma anche semplicemente scantonare, incorrere nelle ire di un potente, vedere tutto quel che ha costruito in frantumi. Lui ama disseminarla, la paura. Lui è un predicatore dell'apocalisse imminente. E allora non illuderti. Nulla di quello che sei, nulla di quello che hai cercato di essere in tutta la tua vita funziona con lui. È fieramente imperturbabile di fronte alle tue stregonerie, ai tuoi incantesimi seduttori, e nessuno ti capisce meglio di me. Proprio perché tu ora stai fallendo là dove io fallirò milioni di volte, nella difficile operazione di sedurlo. Lui non è seducibile, non da gente come noi. Quello che tu stai vivendo in questa serata infernale, io lo vivrò per tutta la vita, tutte le volte che entrerò in contatto con lui. Perché Alfio vedeva in me, forse per la mia somiglianza con mio padre, forse per i tratti ebraici che portavo scolpiti sul mio volto, il figlio della colpa, l'incarnazione stessa dello sbaglio di mia madre. Era lì, seduto nella sua grande poltrona a fiori, posta al centro dell'immenso salotto della sua immensa casa sul Colle Aventino, da cui sembrava dominare il mondo intero. Ed un tratto mi guardava e diceva a mia madre: «Daniel è furbo, stai attenta, è furbo. Già ti sei fatta infinocchiare una volta. Hai visto che naso? Ha un nasone. Lo stesso naso di suo padre e di suo nonno». E non la smetteva di ridere di questa sua constatazione fisionomica che gli sembrava così ineccepibilmente rivelatrice. La biologia era tutto per Alfio Bonanno, anche se lui non lo sapeva. E a nulla valeva l'indignazione di mia madre. A nulla valeva la mia stessa indignazione né il clamore mediatico della correttezza politica. Lui continuava imperterrito a schernire il mio naso nel suo modo ondeggiante tra il serio e il faceto. «Vedi, Bepi, credo di essere il primo ebreo nella storia dell'umanità ad aver subito discriminazioni dal proprio stesso nonno. Il primo ebreo della storia con un nonno antisemita. Per tutti gli ebrei c'è sempre stata la famiglia. Almeno quella, l'estrema risorsa, l'ultimo luogo di fuga, e invece in casa mia l'antisemitismo si era insidiato con la stessa forte determinazione con cui vi era conficcato lo spirito ebraico. A quale scabrosa schizofrenia, caro Bepi, mi state preparando in questa serataccia del 67. Se solo tu sapessi come andrà a finire, stasera, di fronte al tuo futuro consuocero, ti comporteresti in modo assai diverso, assai più duro, affinché il fattaccio non avvenga. Tu forse potresti prodigarti perché non venga unito ciò che non può, ciò che non deve. Il razzismo antisemita risponde, secondo Stefano Levi della Torre, a un bisogno di tradizione. La xenofobia è troppo poco, è occasionale, è legata al contatto con estranei, mentre invece l'antisemitismo offre risposte, perché rimandando a stereotipi offre spiegazioni del mondo e offre un riconoscimento identitario per contrapposizione agli ebrei. Gli ebrei sono tra noi, devono essere riconosciuti e isolati perché noi possiamo riconoscere noi stessi e difenderci. Questo è il meccanismo dell'antisemitismo che oggi nel mondo globalizzato, in un mondo in crisi, in un mondo in difficoltà, ritrova spazio proprio perché non gli è stata nel passato alcuna educazione contraria. E dunque riemergono gli stereotipi del razzismo biologico di fine Ottocento e soprattutto dell'antisemitismo proprio dei regimi totalitari fascisti del periodo tra le due guerre mondiali e della seconda guerra mondiale. Dunque oggi parlare della legislazione antisemita italiana promulgata 80 anni fa significa fare i conti con il presente, con la nostra natura profonda che riemerge nel presente. È di particolare significato considerare la questione sotto questo profilo, perché altrimenti si moraleggia soltanto sulle ingiustizie di un passato come se fosse morto e sepolto. Invece è presente e vivo tra noi. Mercoledì 25 aprile alle ore 16:30 ha inizio l'evento finale del progetto Voci 2018. Le modalità per poter partecipare a questo evento finale sono particolari. Innanzitutto il pubblico potrà partecipare all'evento in piccoli gruppi di 35 spettatori. Dalle ore 15, sotto il voltone di via Portanuova, angolo piazza Malpighi, saranno in distribuzione i pass sino a esaurimento, con massimo 3 passatesta da potersi ritirare, e che permetteranno agli spettatori di entrare, come dicevo, in piccoli gruppi, perché ogni 15 minuti il gruppo entrerà in via Finzi, con una possibilità di percorrere la strada all'interno di una performance in cui partecipano un nutrito gruppo di cittadini bolognesi di tutte le età, e il piccolo gruppo di spettatori in realtà si troverà tra due ali di persone. Queste persone sono poggiate ai muri, sono sedute ai muri, schiena al muro, mani al muro, persone in attesa, persone a passare il tempo, persone a riposare, persone perdute, persone in solitudine, persone in speranza. A un certo punto si sentirà il suono di un clarinetto che sarà il segnale per il pubblico per entrare dentro alle sinagoghe. E qui comincia il percorso all'interno delle due sinagoghe bolognesi, e permetterà al pubblico di vedere la sinagoga piccola nel sotterraneo, che in pratica nessuno ha mai visto sino adesso. È stata inaugurata il recupero, il restauro circa 2 anni fa, ma da allora non è stata più aperta. Quindi il pubblico entra, c'è un percorso all'interno della sinagoga in cui vengono proposte altre composizioni realizzate dagli studenti della scuola di musica applicata del Conservatorio di Bologna. Sino ad arrivare all'ultima stanza, nell'ultima stanza abbiamo una installazione visiva di Manuela Tommarelli e Simone Tacconelli, che rappresenta il momento finale in cui questo piccolo gruppo verrà ulteriormente frazionato, perché la percezione di quest'ultima stanza sarà data alle singole persone. Quindi si esce in via dei Gombrutti. Per ragioni di sicurezza il pubblico dovrà lasciare un documento all'accettazione e lasciare anche la borsa, perché non sarà permesso poter entrare con borse, zaini o cose simili. Il tutto però verrà restituito chiaramente alla fine del percorso, che dura circa 30 minuti. Il progetto Voci 2018 è un progetto dell'Istituto per la Storia e la Memoria Istituto Parri, del Teatro del Pratello, dell'Università Primo Levi, del Conservatorio Martini di Bologna. Per questa annualità c'è stata la collaborazione della Comunità Ebraica di Bologna, di Emilia Romagna Teatro Fondazione Arena del Sole, ed è stato realizzato con il contributo della Fondazione del Monte, della Regione Emilia-Romagna, l'Assemblea Legislativa, e dal patrocinio del Comune di Bologna, anche il patrocinio di Ampi e questa radio, Radio Città Fujiko, è il media partner dell'intero progetto. Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione.